America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Sono rapidamente tornato da Washington, dove continuano le riunioni del Fondo Monetario Internazionale. C'è stata la presentazione ieri del World Economic Outlook. Monetary policy measures adopted by the United States or by Europe were necessary. Avete sentito la Lagarde nell'intervista che abbiamo fatto con lei, l'abbiamo pubblicata su Sole 24 Ore di ieri. A un certo punto ha parlato dell'America, della crescita americana. Beh, è preoccupata per l'occupazione, le previsioni del fondo sono per una crescita del 2,1% per il 2012, del 2,4% per il 2013, una crescita che resta un po' asfittica considerando la manovra espansiva che è stata fatta in questi ultimi tempi. E dunque questa riflessione sull'America che ho visto a Washington parlando con la Lagarde è una riflessione che ha come punto centrale il pericolo, il rischio di un declino degli Stati Uniti d'America. Proprio qualche giorno fa è uscito un altro libro in argomento di Edward Luce, che è un editorialista del Financial Times, vive a Washington. Il titolo del libro è Time to Start Thinking, e poi sotto c'è scritto America in the Age of Descent, e quindi l'America nell'era del declino. Devo dire, è una cosa che da una parte si sente molto nella letteratura specialistica, soprattutto quando si parla di economia, poi però l'America resta sempre un grande punto di riferimento. E dunque questa America, ma insomma, continua a esistere o non esiste più? Visto che questo è il tema, mi sembrava opportuno parlarne con Antonio Monda, un amico, un giornalista, professore di storia del cinema alla NYU, scrive su varie testate americane, su Repubblica in particolare, ed è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno, buongiorno Antonio. Buongiorno Mario, grazie. E figurati Antonio, noi l'ultima volta ci siamo sentiti e abbiamo parlato amabilmente di film, e qui io ti provoco, l'America esiste o non esiste, perché tu hai appena pubblicato un romanzo in Italia, il cui titolo è appunto L'America non esiste. Come tu sai, io qui mi occupo di America, il nostro programma è sull'America, allora mi sono spaventato un pochettino, quindi vengo da te subito. Guarda, la provocazione è mia che ho usato quel titolo. Il titolo è una frase di Henry Miller, lo diceva in Tropico del Cancro, diceva: l'America è un nome che si dà un'idea astratta. Ovvio che è una provocazione, perché l'America esiste come, ma sentivo quello che dicevi sui declinisti, sul presunto declino. Io penso che l'America è stata considerata decadente da quando esiste, quindi non mi iscrivo al partito di coloro che la vedrebbero in decadenza, e faccio un esempio molto preciso. Nel momento più tragico della sua storia, cioè all'epoca della Grande Depressione, questo paese costruisce l'Empire State Building, questa città, la città in cui noi due viviamo, New York, come sai è stato costruito proprio in quegli anni. Questo non significa che oggi ci siano realtà di straordinaria importanza, la Cina, l'India, il Brasile che sta crescendo, quindi non è certamente l'unico polo, ma uno dei poli, ma da qui a parlare di un declino inarrestabile ce ne passa. Raccontaci allora di questo tuo libro, com'è la storia, perché il 51, perché allora, questo romanzo? Il 51 è un anno particolarmente importante. Se è vero, appena detto, che secondo me non siamo in un momento di decadenza o di grande decadenza, è però vero che il 51 era un momento glorioso, forse un picco. È il momento in cui New York prende il sopravvento su Parigi come capitale del mondo, culturale soprattutto. Hemingway scrive Il vecchio e il mare, Salinger il giovane Holden, l'espressionismo astratto esplode da Rothko a Jackson Pollock a Jasper Jones, eccetera, eccetera, a Willem de Kooning. Il cinema sforna un capolavoro dopo l'altro, Eva contro Eva, Viale del Tramonto, Il terzo uomo, La regina d'Africa, eccetera. E qui parlo ai due miei protagonisti italiani appena arrivati da un paesino del napoletano: Rocky Marciano diventa campione del mondo. Quindi ho immaginato che due ragazzini con occhi vergini scoprano l'America e vedono un'America in tutto il suo fulgore, ma è anche un'America dove c'è il maccartismo, quindi anche con delle ombre molto inquietanti. Questi due ragazzini che sono dei protagonisti ante litteram di quella che è una sezione del nostro programma di America 24 che è Solo andata. Trovo così affascinante, in qualche modo curioso, interessante, provocatorio poter fare questa piccola riflessione su Nicola e Maria, che il biglietto di Solo andata lo hanno preso nel 51. Loro l'hanno preso per un dramma, per una tragedia, rimangono improvvisamente orfani, e il libro racconta due modi completamente diversi di scoprire e vivere l'America. Lei lo vive in maniera riflessiva, spirituale, arriverei a dire mistica. Lui la vive come una terra da conquistare e ci riesce. Una volta delineata la caratteristica psicologica e direi morale dei due personaggi, io ribadisco che la vivono con occhi vergini, cioè loro non sanno nulla, non ci sono mai stati, neanche i genitori c'erano mai stati, quindi vengono catapultati da un paesino e vedono la città dei grattacieli. Poi si fermano, vivono e restano, e questo biglietto di sola andata diventa permanente? Senza rovinare il funerale. Ho l'impressione che succeda proprio questo, che entrambi rimarranno a New York, la ragazza Maria a Brooklyn, il ragazzo a Manhattan, perché sa che per conquistare bisogna conquistare il centro del mondo, non la periferia. Insomma, diciamolo Antonio, anche tu sei un immigrato, anch'io sono un immigrato. Ecco. Dai, Stevenson ha scritto un libro che si chiama Emigranti di lusso, forse lo siamo tutti e due, no? Noi non siamo partiti con le valigie di cartone, siamo venuti con un lavoro, con una laurea, eccetera, con i privilegi che tanti prima di noi non avevano. Io non so per quanto mi riguarda se c'è un biglietto di ritorno, non lo so, non mi permetto di rispondere per te, però certamente non ho subito il trauma e il dolore di quelli che l'hanno fatto gli anni 20, 30 o anche più avanti, quelli della canzone Partono i bastimenti. Detto questo, lasciare il proprio paese è sempre qualcosa di duro, di forte, anche doloroso. Ma il senso della scoperta allora come adesso è il motore dietro questa costante ricerca americana, o no? Io ritengo che quello che succedeva negli anni 50 non è cambiato da quello che può succedere adesso. L'America ancora è una grande opportunità, è una terra di conquista, io la definisco una madre adottiva, severa come tutte le madri adottive, ma che mantiene le promesse che fa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, 1951. Quali erano i hit del 51? Pensate, Tony Bennett ne aveva due nel 1951. Tony Bennett, che quest'anno ha vinto un Grammy Award, 1951. 2012, 61 anni, dunque una carriera di 61 anni, nel 51 un hit, nel 2012 un premio, e dunque dedichiamo la canzone del giorno a Tony Bennett e alla continuità del sogno americano del 51, Cold, Cold Heart, Tony Bennett. And so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.